fossi io. Viene lento di vagare una musica brutal, encendió nuestra pasión. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Devo farvi innanzitutto una comunicazione di servizio. Oggi chiuderemo un po' prima Melog, all'incirca verso le 10.30, perché daremo la linea a Roma, all'Auditorium Parco della Musica, dove si terrà l'assemblea annuale di Confindustria. Ci sarà la diretta, quindi alle 10.30 circa lasceremo la linea. Ci sarà un discorso di apertura del Ministro dello Sviluppo Economico Scajola, poi ci sarà una relazione del Presidente Emma Marcegaglia e concluderà Silvio Berlusconi. Però noi nel frattempo parliamo di altre cose. Io ho circa 50 anni e gioco in rete, gioco a biliardo, a pool, e gioco con tutte le persone di questo mondo. Poi alla fine capita di scambiare qualche parere sull'età e io più delle volte vengo insultato. Da chi? Da ragazzine che per fuso orario o perché l'orario mio non è compacente, sono a luna di notte in piedi a giocare a biliardo e a chattare. Io mi dico, ma cosa fai lì? Ma non hai degli impegni? L'avrete capito, il tema di oggi è il deportato digitale. Colui che, gioco forza, è stato portato come se fosse un campo di prigionia in un'altra realtà, una realtà che trapela, di cui sentiamo viva presenza, nella quale ci immergiamo, ne usciamo, nella quale ci espandiamo, nella quale diamo un senso diverso alla nostra sensazione del contatto con il mondo che ci circonda, diamo un'estensione diversa alla nostra fisicità, le nostre emozioni si prolungano oltre i limiti sensoriali, geografici, anagrafici, come questo signore che passa le notti a giocare a biliardo in rete e quando vede i ragazzini gli dice: cosa fai questa notte ancora alzato, vai a casa. Naturalmente atteggiamento totalmente analogico, fuori posto, non c'entra assolutamente nulla, però anche lui comunque entra in un mondo di cui poco capisce, di cui però molto lui interagisce. Io frequento il web da tantissimi anni, frequento i social network. Il social network è un ricettacolo, secondo me, di sfigati cronici falliti nella vita, arrivano sul social network e iniziano a raccontare, inventarsi delle storie incredibili, ad ascoltare i lamenti della classica casalinga di Voghera che rinasce a nuova vita. Cioè, è pazzesco. Dovresti entrare in posti tipo Digiland, nelle chat room e leggere quello che si scrivono. Altra deportata digitale entra, vede, lambisce, occhieggia, fallisce e probabilmente ha un'esperienza negativa. Anche lei, nel più grande acceleratore di emozioni, di relazioni, di incontri, di illusioni, di mistificazioni di identità, trova qualcosa che non le appartiene. Eppure ci sta perché lì è stata deportata. Non trova maniera migliore, maniera diversa per vivere la propria contemporaneità che lamentarsi della sua condizione deportata. In che livello anche voi siete dei deportati digitali? 800240024. Questa idea di parlare di questo argomento, di affrontare il tema ormai stradibattuto, stradiscusso del web, delle moderne maniere di relazionarsi, della velocizzazione e della privacy, tutti temi che toccano ogni giorno le cronache. Ma il tema dei deportati digitali, il tema di quel signore mi chiamò qualche giorno fa dicendo che lui aveva 70 anni, andava in chat, faceva toc toc, mi fai entrare, e lo mandavano tutti a quel paese e non si spiegava perché non potesse anche lui essere seduttivo. Aveva capito che nel mondo digitale si può uscire dalla propria identità, si può rinnegare la propria definizione anagrafica, si può essere tutt'altra cosa. Perché lui aveva quella impressione di essere l'imbucato con il borsello e i jeans a vita alta in una festa di ragazzini? Perché era un deportato digitale. Ma io mi ricordo quando ero piccino, andavo a giro in bicicletta e la mia mamma mi diceva di stare attenta ai traffici e tutto il resto, eccetera, eccetera, perché era pericoloso. Io credo che la stessa situazione sia col computer, cioè devono essere i genitori a insegnare ai figlioli come usarlo senza poi però andare dall'altra parte col terrorismo e poi curiosità e voglia di trasgredire. La mia mamma, quando ero piccino, in età da fumare le prime sigarette, mi disse: guarda, quando vuoi fumare una sigaretta vieni qua che ce la fumiamo assieme. Altro esempio, ma voi spero me ne forniate moltissimi, di portato digitale, colui che sente il forte senso di trasgressione, varcare con lo starghetto casalingo, con la linea di demarcazione fra la quiete e controllata tranquillità familiare e il mondo vorticoso della trasgressione della rete, laddove tutto può accadere, tutto può essere visto, tutto può essere compulsivamente consumato, significa un passaggio quasi generazionale che equivale al suo fumare le prime sigarette. Anche lui, da buon padre di famiglia, se la sentirebbe forse di tenere la mano sulla spalla ai propri figli in quel mondo in cui potrebbero così facilmente perdersi. Deportati digitali, l'argomento del giorno. Ne parliamo intanto con l'amico professore Rossetti, che abbiamo qui, Andrea Rossetti. Andrea Rossetti avete sentito molte volte. Buongiorno Andrea, è buongiorno. Professore di filosofia informatica giuridica all'Università di Milano Bicocca. Andrea, innanzitutto, il deportato digitale è di fresco conio, te lo sei inventato te praticamente, perché sì, ne parlavamo ieri e ci è venuta questa bellissima idea. Ce lo siamo inventati un po' ieri effettivamente mentre parlavamo. E sono queste persone che appunto cercano di adottare le nuove tecnologie, quindi hanno voglia in qualche modo di partecipare, ma non hanno la minima idea di che cosa abbiano modificato queste tecnologie nella maniera di comunicare con le persone. E quindi adottano stili comunicativi che sono quelli della tradizionali, diciamo così, e non riescono a interagire con quelli che noi abbiamo chiamato, o meglio, che la letteratura chiamiamo nativi digitali, no? Coloro che hanno a che fare con queste tecnologie da quando sono nati. Ahimè, né io né te Gianluca siamo nativi digitali, insomma. Però ecco, c'è una lieve differenza. Noi siamo emigrati nel mondo digitale, generazionalmente non saremo coloro che sono stati generati proprio da questa diversa visione, considerazione della realtà, definizione fra reale e irreale, definizione fra concreto e inconcreto, via dicendo. Benedicendo le nuove e entusiastiche generazioni che si sentono i portatori della contemporaneità, noi comunque siamo quelli che hanno questo gravoso e anche un po' patetico compito del pionierismo. Ieri abbiamo fatto un convegno a Pavia, che è la tua città, e è venuto fuori pioniere, noi ai tempi delle BBS, ai tempi delle vecchie chat, noi c'è questo senso di pioniere, però noi non siamo dei deportati, ci stavamo dentro e siamo dei vecchi rottami del mondo digitale probabilmente. Esattamente, noi in qualche modo ci sforziamo di stare alla pari con queste cose, perché capiamo in qualche maniera che le cose sono cambiate. Non è detto che ce la facciamo, è la cosa che l'osservazione di ogni ascoltatore, no? Che dice che i genitori devono controllare il ragazzino che va in rete. Sono parole sagge, per carità, però il problema è che in molti casi noi non sappiamo davvero cosa controllare, perché non abbiamo davvero un'idea precisa di cosa facciano i nativi. Noi siamo appunto, adottiamo molto precocemente, proviamo un sacco di tecnologie diverse. L'esperienza che io ho con i miei studenti è che abbiamo esperienze della rete, del web più in particolare, davvero diverse. Abbiamo pochi punti in comune. Ad esempio, i ventenni di oggi non usano praticamente le email, mentre le email per me, per te, per quelli della nostra generazione sono il pane quotidiano. Internet è in qualche modo identificato con le email. Noi in qualche modo rincorriamo, alcune volte rincorriamo abbastanza, li riusciamo un po' a precedere, ma io ho l'impressione che in molti casi siamo abbastanza arretrati anche noi, insomma, non capiamo bene la direzione. 800 24 00 24, questa è la mattinata della confessione, il coming out. Se anche voi appartenete alla generazione deportati digitali, questo è il momento per confessarlo. Cercheremo per quanto possibile, visto che anche noi abbiamo mestamente sulle spalle il peso di un mondo che di cui forse conosciamo qualcosa perché l'abbiamo sempre visto e studiato, ma ci sfugge nella sua essenza. Ma questo è giusto, questo fa parte naturalmente della nostra necessità generazionale. Presento il secondo ospite, intanto Giampiero Lotito. Giampiero Lotito, buongiorno. Giampiero Lotito, tu sei un esperto invece di migrazione digitale, hai scritto Migranti digitali, Bruno Mondadori, origine e futuro della società dell'informazione dal 3000 avanti Cristo al 2025 dopo Cristo. La tua teoria, se non sbaglio, è quella che in realtà la cosiddetta rivoluzione digitale non è che comincia con l'esplosione di Facebook di questi ultimi mesi, ma ha una sua storia, forse vale la pena di ricordare. La convergenza di tante storie, dal mondo della comunicazione a quello dell'editoria, a quello dell'intrattenimento, ma anche mondi come quello della comunicazione tradizionale o della tipografia o mondi ancora più lontani nel tempo, che hanno creato questa convergenza che poi si è tradotta, si è esplicitata negli anni '80 con l'esplosione delle tecnologie digitali che ci hanno portato fino a qui. qui siamo nella seconda fase di quello che è un processo evolutivo delle tecnologie e che viene chiamato rivoluzione perché ci ha cambiato la vita in un modo straordinario. Quindi, però è la coda lunga di un processo che era iniziato già da parecchio tempo. Sì, è la coda anche lunghissima, ma poi si ripetono anche dei fenomeni e dei fatti che noi abbiamo già visto nel tempo. Al tempo di Gutenberg c'è stato il problema di organizzare la conoscenza e in pochi anni arrivarono milioni di libri in tutta Europa, non si sapeva come trovarli, come comprarli, e un italiano inventò il catalogo e il libro portatile, Aldo Manuzio, e cominciò un processo di organizzazione della conoscenza che è né più né meno quello che sta succedendo adesso in rete, ad esempio con i motori di ricerca. Senti Giampiero, perché invece noi abbiamo l'impressione di essere testimoni di qualcosa senza precedente l'umanità? Un salto evolutivo velocissimo e condensato nell'esperienza vitale di un essere umano. Non è mai successo l'uomo vedesse cambiare il mondo così velocemente come sta accadendo adesso, o è semplicemente una delle tante illusioni di ogni epoca? No, è esattamente questo il fenomeno che ci colpisce. Io forse perché vivo da 22 anni tutto questo dal di dentro e sono un po' disincantato, ma credo che i miei nonni abbiano vissuto nell'arco della loro intera vita una rivoluzione superiore, perché hanno visto arrivare il frigorifero, l'aereo, la penicillina, la televisione, la radio, cioè fatti i treni, il telefono, l'elettricità, fatti veramente sconvolgenti. Noi stiamo vivendo in modo straordinario quello che accade, perché non è solo velocissimo, ma porta tutte queste cose, tutte queste tecnologie, tutti questi fenomeni ha un'espressione che era impensabile. C'è in un libro di Michael Crichton c'è la descrizione di quello che uno scienziato avrebbe potuto pensare alla fine del secolo scorso, e a un certo punto dice: nessun pazzo visionario avrebbe mai potuto pensare che con 200 grammi di plastica in tasca avremmo potuto comunicare con qualsiasi uomo della Terra in qualsiasi momento. Sono questi i fenomeni che ci stanno sconvolgendo, però forse non viviamo la più grande rivoluzione della storia. No, è importante, perché per affermare queste cose occorre avere, come Gianno Bifronte, anche uno sguardo all'indietro, e in realtà il nativo digitale è molto propenso a vivere, questo sto facendo un discorso da vecchietto, me ne rendo conto, però è fondamentale ricordare al nativo digitale, che non vediamo come antagonista alla nostra generazione, che fare questo tipo di riflessione significa non perdere tempo nel crogiolarsi nella meravigliosa e fantastica sensazione di appartenere a una evoluzione mai esistita prima della specie umana. Cominciamo a dare voce invece ad alcuni deportati digitali che ci stanno chiamando. È giusto che anche loro abbiano una volta tanto diritto di esprimersi. Marcello, lei è un deportato digitale? Sì, mi potrei definire così. Le pesano queste catene? Ma guardi, io non darei una connotazione negativa a questo termine, come spesso magari si tende a fare. Io credo che possano convivere benissimo la modalità analogica e quella digitale. Nel senso che, per esempio, nella mia esperienza, io ho conosciuto in rete, giocando, degli amici con i quali la sera, attraverso un voice server, si gioca, si parla, si discute e ci si incontra anche proprio di persona, fisicamente. Quindi, il lato analogico è la proiezione fisica dell'incontro virtuale, questo? Sì, diciamo, secondo me ci vuole sempre un sano equilibrio in tutto quello che si fa. Però può essere anche un arricchimento ulteriore della propria vita, ecco, essere anche un pochino di portati digitali. Ecco. Sentiamo Maurizio. Maurizio, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Lei da 10 anni è deportato digitale? Sì, da più o meno 10 anni io frequento i social network, le chat, diciamo. Io non la vedo tanto positiva questa cosa delle chat e dei social network, perché comunque secondo me... Quindi a lei la deportazione comunque crea dei problemi, delle sofferenze? No, però sono un osservatore, mi piace osservare, sono molto curioso in tutti gli ambiti, diciamo, artistici e comunque anche sociali. E mi piace, ho creato una televisione online, quindi bene o male mi muovo in ambito digitale. Però ho notato molto che purtroppo questi social network si sono sostituiti, diciamo, in qualche modo a quella che prima era invece la piazza, no? Allora, la piazza reale, Vabbè, questo è un dato di fatto tipico. Ma è un dato di fatto che però sta illudendo i ragazzi, comunque, che fare una critica, parlare di società in chat, aiuti a risolvere qualcosa. Secondo me invece non è così. Aiuta solamente a rigirarsi su se stessi e rimanere lì isolati, poi alla fine dietro un monitor, senza avere il contatto e senza avere poi fare quel gradino ulteriore per poi impegnarsi in qualcosa di più di quella che è la semplice discussione. Quindi io vedo che questi social network, secondo me, hanno generato comunque solitudine, secondo me, perché non c'è più l'incontro reale, non c'è più la piazza, non c'è più facciamo questo. Cioè, parliamo male di questo, parliamo male di quest'altro, parliamo di male di quest'altro. Io sto parlando del lato, diciamo, sociale. Sì, sto parlando della discussione. No, ma è perfettamente chiaro. Andrea Rossetti, abbiamo sentito le voci dei due deportati e mi sembra che riassumano perfettamente quello che è l'atteggiamento medio dell'utente che queste modalità di relazione le frequenta, perché probabilmente per lavoro, per professione, per curiosità, per capacità e manualità tecnologica, ma ne vede molto i limiti, cosa che il nativo digitale in realtà vive come fosse l'unica vera e possibile realtà. Ma sì, anche perché io non vedo alla fine una grandissima esperienza, un'esperienza molto diversa in un sedicenne attuale da quella che avevo io quando avevo 16 anni. Le discussioni, invece di essere magari in chat, erano in piazza fino alle 2 di notte a discutere dei massimi sistemi. Adesso il medium è diverso, però non è che il fatto che io parli tramite un telefono piuttosto che tramite una chat in qualche modo impoverisca la conversazione. Sicuramente la componente fisica ha un'importanza, però insomma, ha un'importanza evidentemente per i nativi digitali minore di quella che aveva per noi. Ripeto, ancora adesso io con alcuni amici, appunto quarantenni come me, discuto spesso tramite Skype. Perché? Perché la vita ci ha diviso, no? Lavoriamo, cioè, siamo in città diverse, ovviamente. Le chiacchierate più importanti ce le facciamo anche noi tramite Skype. Esattamente, cioè, però questo non è che impoverisca in qualche modo il nostro rapporto, siano meno importanti o cambiano. Sì, stando tu a Milano e a Roma, dovendo parlare e stando tutti e due davanti a un computer, mi sembra la cosa più logica. Creano... Cioè, questi strumenti permettono di creare forme di socialità diverse. Beh, insomma, la nostra stessa conoscenza tramite questi strumenti probabilmente non sarebbe mai avvenuta. Ecco, io Rossetti ve lo ricordate. Ci conoscemmo ai tempi di Second Life, eravamo due avatar, poi facciamo adesso cose assieme, iniziative, convegni, quindi è venuto fuori qualcosa. Lotito, questi atteggiamenti che sembrano marcatamente, esplicitamente neoluddisti, non tendono però a condannare il deportato digitale a non comprendere a fondo le potenzialità dei mezzi che frequenta con questo senso di distanza, di distacco, quasi di sofferenza? Sì, ma anche qui la storia si ripete. Io negli anni 70 da adolescente presi il mio primo LP che era Abraxas dei Santana, cominciai ad ascoltarlo a casa e il parroco si preoccupò di chiamare mia madre da parte e consigliarle di non farmi ascoltare certa musica. Oggi un atteggiamento del genere non avrebbe senso. Adesso non so esattamente quanti anni hai, come accadeva con i cosiddetti fumetti Diabolic, Satanic, esatto. Criminal e via dicendo. Con i miei figli è successo con i cartoni animati con i miei fratelli più piccoli, di Mazinga Z, che facciano male, e con i miei figli probabilmente con i videogiochi. Ancora ieri ho visto l'ultima crociata contro l'ultimo videogioco, facciamo qualcosa perché non venga importato questo videogioco. C'è sempre un mostro nero tecnologico, esatto, che spaventa tutti. Esatto, sempre ragionando così da adolescente degli anni 70, io vivo a Pavia ma sono nato a Potenza in Lucania e negli anni 70 per avere un long playing aspettavo 15 giorni per riceverlo via posta. Sì, perché si ordinavano, mi ricordo, anche a Perugia. A Bologna. Sì, a Bologna. E c'erano delle spedizioni, noi che eravamo perugini, che andavano a Bologna, perché Bologna era una città... Esatto. Fornitrice di piaceri illeciti a Iosa, fra cui si andavano a comprare anche i long plane. Esatto. Un ragazzo di adesso può fare in 5 minuti quello che io facevo in 15 giorni. O quelli che andavano a Londra, non so se ti ricordi, sì. C'era chi andava a Londra a fare un corso di inglese e tornava con queste cassettate di LP che era il massimo possibile. E quindi è chiaro che c'è sempre una doppia visione della tecnologia. Io però vorrei puntualizzare velocemente una cosa, quello dei nativi digitali, che è un problema che, essendo la naturale continuazione di quello che ho scritto in Emigranti Digitali, è una cosa che mi interessa molto, è anche un problema molto italiano e molto europeo. Comunque è un problema questa differenza, questo stacco generazionale, che in certi paesi più evoluti tecnologicamente non si osserva. io a fine ottobre ero in Silicon Valley per ragioni di lavoro, ho parlato un paio di volte di digital natives, ma hanno guardato come dire cosa sono, perché noi viviamo questo stacco generazionale che in altre società più evolute tecnologicamente non è così presente. Quindi ci dobbiamo anche interrogare. Quindi non corrisponde a uno stato anagrafico, corrisponde a una percezione della contemporaneità. Esatto, viene identificato in questo momento dai più con lo stato anagrafico, perché è più facile dividere la società in giovani evoluti e meno giovani meno evoluti. Ma in realtà è uno stato, è una condizione, esattamente come, sì, come l'hai descritto. È una forma digital divario, credo, no? È un altro modo per chiamare la stessa cosa. Insomma, esatto, ed è una cosa diverse, oltretutto, che potrebbe rendere paesi più poveri e meno evoluti attualmente del nostro, più forti del nostro in 10-15 anni. Certo. Riprendiamo velocemente a parlare di deportati digitali, lo sto facendo con Andrea Rossetti, che è professore di filosofia informatica giuridica alla Bicocca a Milano, e con Giampiero Lotito, autore di Migranti digitali, Bruno Mondadori editore, che è un libro proprio dell'origine e del futuro della società dell'informazione, dove si dimostra che in realtà questo senso della società digitale era già nella nostra storia, nel nostro DNA, che non è stato poi un cambiamento così repentino e veloce. Vorrei dare la voce a emigranti digitali che stanno chiamando copiosi. Roberto da Milano, buongiorno. Eccomi qua. Io in realtà non sono proprio un emigrante digitale, sono un nativo digitale un po' datato, perché negli anni 70... Su non bleffi, come tingersi i capelli. Se, se dal 69 anni... sta in rete, lei è un emigrante digitale, e quindi bello e buono. Sì, sì, certo. Dai primi anni 70 a Stanford avevo la fortuna di essere lì mentre la rete nasceva, ma l'osservazione che volevo fare è un'altra. Sono molto d'accordo con quello che ha detto qualcun altro prima. Io mi sono inventato circa 10 anni fa dei corsi di internet per anziani. Ne abbiamo fatti in tutta Italia 30.000, perché abbiamo una visione abbastanza globale. Ecco, questo fatto che il giovane è bravo ad andare in internet e ci va tanto, e l'anziano non ci va, è solo uno stereotipo. Guardi, adesso farò una confessione che mi costerà forse anche la galera. Anni fa io mi inventai con degli amici una beffa mediatica di cui parlavano tutti i giornali: All the Hackers, le pantere grigie, i pirati informatici della terza età. Il loro motto, che poi eravamo noi e ci divertivamo un sacco, ci chiamava Costanzo, vogliono chiamarci tutti i giornali, in realtà non potevamo dirlo, il loro motto era la rete dei vecchi perché i giovani hanno già la vita. E ci eravamo inventate vecchiette di 70 anni che hackeravano il sito delle poste e si prendevano la pensione, cose del genere. Però in realtà penso che fosse qualcosa di profetico rispetto a quello che lei sta dicendo. Chiarare il sito delle poste no, però io ho persone di 80 anni che sono su Facebook tutto il giorno, ho gente che si è fatto un blog, ho gente che mi scrive tutti i giorni per avere consigli su come strutturare le pagine del suo sito. Ovviamente non è un discorso di età, è un discorso di predisposizione e di mentalità. È quello che diceva Lotito, che andando a Silicon Valley si è reso conto che il termine nativo digitale a loro non dava nessuna idea, perché non è legato all'anagrafe. Il mondo digitale è per la caduta di ogni connotazione anche anagrafica, e nella riproducibilità del pensiero, se questo pensiero è racchiuso in una pelle rugosa, non cambia molto. Piero da Roma, ultimo nativo, emigrante, deportato, non so bene. Piero, ecco, a quale categoria appartiene? È un deportato? Mi sento più un emarginato che un deportato, e non condivido una nuova categoria, l'emarginato. Sì, digitale. Non condivido molto quello che ha detto l'ascoltatore prima, nel senso che credo che la rete sia di appartenenza di una classe di età che va dai... La rete è di chi se la prende, tanto per cominciare. Sì, va d'accordo. Comunque io un giorno sono stato contattato da una persona, da una ragazza evidentemente giovane, ma casualmente ho sì, risposto, per caso, certo. Mi ha chiesto, no, ti giuro, mi ha chiesto... Quella foto di lei vestito da culturista che aveva messo era puramente casuale. Era una chat casuale su Skype, ti dico pure cos'era. E a un certo punto lei mi ha chiesto... Incontri bollenti era il titolo della chat. No, scusi. Evidentemente l'età. Io glissavo. A un certo punto, quando gli ho detto 60 anni, mi ha scritto un ciao con 650... Ma scusi, cosa pretendeva? Vediamoci subito, no, non sto però, nella pelle. No, però neanche a parlarci con uno di 60 anni. Ma guardi... Lì non è che c'è tanto tempo per passare dal dire al fare, quindi ha pensato bene che non sarebbe stata, ma non per figuriamoci, anch'io ho quasi 60 anni. È perché in realtà è un'altra cosa, è un altro mondo, è un altro desiderio. Rossetti, Andrea. Ma io vedo una differenza in effetti tra i giovani e i vecchi, non tanto quando il computer viene usato per divertirsi o per comunicare, ma quando il computer viene usato per lavorare. Io lavoro in ambito giuridico, insomma, e vedo che i giuristi di una certa età effettivamente hanno un uso di queste macchine totalmente diverso dai giuristi più giovani. Questo è innegabile. Quando i nativi digitali diventeranno gli avvocati, i giudici, i cancellieri, allora lì secondo me nel sistema giustizia vedremo davvero entrare l'informatica. Io appunto non tanto al punto di vista ludico del gioco, insomma, ma nel campo professionale vedo proprio usi diversi tra generazioni diverse. Gianpiero Lotito, questa differenza che abbiamo già detto che nella purezza del pensiero digitale non è marcata dall'età, sarà più notevole quando i nativi digitali smetteranno di giocare e anche loro cominceranno a contribuire al benessere dell'universo? Sicuramente, perché comunque esiste un atteggiamento diverso, perlomeno nel nostro paese. Ecco, dobbiamo cercare di tener conto del fatto che uno dei problemi che deve affrontare il sistema paese Italia e più in generale una buona parte dell'Europa è quello dell'inserimento di queste nuove generazioni nel mondo del lavoro, dove comunque ci sono generazioni presenti da più tempo che hanno più difficoltà di approccio, come diceva Rossetti adesso, alla tecnologia e al suo uso virtuoso, bene o male. E infatti le tre I di un tempo dello sviluppo tecnologico del nostro paese oggi forse dovrebbero diventare l'infrastruttura, quindi la banda larga per tutti, l'insegnamento, quindi sai benissimo di aprire un problema attuale quanto doloroso su questo fatto della banda larga in Italia soprattutto. Passa tutto da lì. Senza infrastruttura è difficile fare in modo che la società, che la nostra società, il nostro paese evolvano e si avvicinino ai paesi più evoluti. Il discorso sarebbe interessantissimo, Lotito. Ti ringrazio, ma avevo già annunciato che questa trasmissione avrebbe avuto un termine anticipato. Lo riprenderemo senz'altro anche quanto prima, anche perché vedo che nativi digitali, migranti digitali, deportati digitali si stanno contendendo il diritto di dire la loro. Quindi ci aggiorneremo su questo programma quanto prima e diamo la linea, come avevo detto, all'Auditorium Parco della Musica, dove c'è l'assemblea annuale di Confindustria. Melog 2.0.